Еще фруктов растения на пипи. Эмэ, Анька Мецавита. Quella donna sta cercando di uccidermi. Quella donna sta cercando di uccidermi. Bambina carabina, uccidimi. Bambina carabina, uccidimi. Bambina carabina, uccidimi. Bambina carabina. Dicono che chi al mondo sta cercando qualcosa. Rassomiglia ad un uomo patetico. Ma quella donna sta cercando di uccidermi. Quella donna sta cercando di uccidermi. Bambina carabina, uccidimi. Bambina carabina, uccidimi. Bambina carabina, uccidimi. Bambina carabina. Sarà al seppia mi ha suggerito una volta di non dar retta a quegli stupidi molluschi. Ma quella stronza sta cercando di uccidermi. Quella donna sta cercando di uccidermi. Meraviglierò il mondo con la mia notte d'asfalto. Quando l'oblio della notte si appiccicherà sulle vostre teste d'argilla. Ed il miracolo sarà di uno stupido mancino. Bambina carabina, bambina carabina, bambina carabina, bambina carabina, bambina carabina.